24 settembre 2015, sono Gerlando Gatto, siamo qui a casa mia e mi è venuto a trovare un artista che viene dal sud e come al solito lascio a lui il compito di presentarsi. Buonasera a tutti, buongiorno se ci ascoltate di giorno, sono Saverio Pepe e vengo da Matera. Sono un cantautore, un appassionato della lingua italiana, della parola, e mi piace raccontare delle storie, delle emozioni, dei concetti attraverso l'utilizzo della scrittura. La scrittura si trasforma in canto per passione da una parte, per formazione dall'altra e per condizione, dato che la musica pervade l'esistenza di tutti quanti noi. Perfetto. Tu ti stai facendo conoscere grazie a un CD abbastanza particolare che è in circolazione in questo periodo e che si chiama Canto male il jazz. Allora verrebbe spontaneo chiederti: ma se lo canti male, perché lo canti? Lo canto male, ma mi piace. E siccome mi piace l'idea del jazz, perché è il mio genere di musica preferito e ascolto di tutto, dal jazz della tradizione a quello scandinavo degli ultimi anni, mi piaceva l'idea, volendo raccontare, volendo portare al pubblico delle storie, mi piaceva l'idea di mettere assieme il jazz e la radice nostra italiana, che è quella del cantautorato, che è quella con la quale per forza di cose in Italia cresciamo, no? Poi si diventa più grandi, i percorsi ognuno prende i suoi dal punto di vista degli ascolti, il mio in particolare si è spostato, come dicevo prima, verso il jazz, e quindi mi piaceva questa idea della commistione. E infatti anche gli ambienti musicali, gli ambienti sonori all'interno dell'album sono differenti, perché mi piaceva l'idea di esplorare tempi dispari da una parte, oppure atmosfere sudamericane tra habanera e un po' di bossa nova, ma c'è anche la radice di sud, c'è qualche brano che ha delle sonorità simili a quelle della pizzica della tarantolata, ma restano sempre, diciamo, in un clima jazz. Non può essere diversamente, dato che i musicisti sono tutti bravi jazzisti, tra i più bravi secondo me del nostro panorama musicale italiano jazz. Sì, in effetti il côté jazzistico dell'album è valido, grazie a questi musicisti che mi pare il caso di ricordare. Sì, partiamo dalla sezione fiati, due nomi importantissimi, primo su tutti Marco Tamburini, che ha suonato la tromba, Daniele Scannapieco, il sassofono. Marco si è occupato anche dell'arrangiamento delle parti in sezioni dei fiati. Al pianoforte, all'arrangiamento, anche al flauto e al sax contralto, Alfonso De Idda. Alla batteria, Giovanni Scasciamacchi. Al contrabbasso, Aldo Vigorito. Al bandoneon, Antonio Ippolito. E poi un team di tre coristi e tamorristi, con la T, tamorristi, Nunzia De Giorgi, fra l'altro soprano nel brano Venosa, Claudio Mola e Gianni Grilli. Con quale criterio hai scelto questi musicisti? Volendo fare un lavoro di mescolanza, l'idea era quella di coinvolgere musicisti che avessero avuto già esperienza nella canzone italiana, quindi che avessero già suonato non solo ed esclusivamente il jazz. Questo lavoro non è un lavoro prettamente jazzistico, per cui aveva bisogno di musicisti che avessero un'esperienza in altri ambiti della musica e della canzone, e loro tutti vantano collaborazioni con grossi artisti. Marco Tamburini, che è stato forse uno dei più grandi trombettisti qui in Italia, e non lo dico perché adesso è facile dirlo, adesso che non c'è più, perché è un'attestazione di stima che gli hanno riconosciuto tutti da sempre. Daniele Scannapieco, lui è molto coltreniano quando suona il jazz, quando compone lui, poi però si trova a suo agio a fianco a musicisti come Edoardo De Crescenzo ultimamente, come Mario Biondi, quindi insomma occorrevano queste esperienze differenti. Alfonso De Idda è stato il pianista, tra gli altri, di Gigi Telesforo, quindi un musicista jazz che però canta canzoni, poi lo fa a modo suo, chiaramente, con quel piglio straordinario che Gigi ha. Quindi mi pare di capire comunque che sei più che soddisfatto della riuscita dell'album. Bah, diciamo che l'album è esattamente come io volevo che fosse, e quindi mi reputo fortemente soddisfatto, perché è stato un lavoro lungo di ricerca ed è un lavoro anche di un non cantante, no? Di uno che racconta attraverso le parole e poi alle parole ci mette le note. Quindi io, pur avendo studiato il canto jazz in conservatorio, in realtà ho sempre preferito lasciare intatta quella matrice spontanea, e ho voluto fortemente che fosse rimarcata nel disco, con i rischi che questo comporta, perché poi chiaramente uno legge jazz e si aspetta una voce tipicamente jazz, e quel canto male forse è quel momento di ironia che vorrebbe anche giustificare, dire agli amici jazzisti: attenzione, non stiamo invadendo un campo, stiamo semplicemente esplorando un modo differente di raccontare. Nell'ambito di questa tua ricerca, la lingua a cui tu facevi riferimento, la lingua italiana, che importanza riveste? Il punto di partenza è sicuramente il concetto che voglio esprimere. E questo concetto non può che essere espresso con delle parole. Se riesce ad arrivare al cuore, è perché hai pensato per esprimere quel concetto, quella serie di parole e non altre. Quindi la lingua ha predominanza, perché è vero che la cosa fondamentale è il concetto, ma se un concetto non lo esprimi secondo la tua volontà, probabilmente arriva un messaggio differente. Quando componi una frase, componi un verso, provi con diverse parole, provi anche una forma che può essere attiva, riflessiva, oppure le studi in maniera tale da poter creare il migliore incastro possibile. Ma quando non ne trovi un'altra, due sono le cose: o non sei riuscito a trovarne un'altra di parola sostitutiva, o forse è proprio quella. E se la riguardi, la rileggi una, due, dieci, cento volte, evidentemente hai trovato la parola giusta. Bene, allarghiamo un attimo l'orizzonte. Tu vieni da Matera, una località che per quanto riguarda il jazz ha avuto un andamento piuttosto strano, nel senso che parecchi anni fa era una città dove c'era una intensa attività jazzistica anche a livello nazionale, c'era l'Onyx Jazz Club, c'erano dei dischi che faceva l'Onyx, c'erano dei concerti straordinari, degli appuntamenti importanti. Dopodiché, per un lungo lasso di tempo, Matera è scomparsa dall'orizzonte nazionale. Che è successo? L'Onyx esiste ancora, è un'associazione ancora molto viva, ma deve combattere, lottare con il finanziamento, perché un'associazione vera, cioè un'associazione culturale, che fa l'associazione culturale vera, che significa? Significa che utilizza il denaro pubblico per destinarlo a un cartellone, e quindi no, significa che chi lavora perché questo possa accadere non ci guadagna dei soldi, certo. Quindi non ha margini per considerare se stesso nell'operazione del proprio lavoro, lo fa perché la passione e la voglia di associazionismo che pervade da sempre il concetto di Onyx la fa da padrona. Per cui è chiaro che lo sbigliettamento è diventato complicato. Ahimè, negli anni forse le stesse associazioni hanno abituato male l'utenza, non è difficile staccare un biglietto, vendere un biglietto, uno preferisce andare in pizzeria la sera, no? Giustifica 15 euro sborsati per una pizza, per un concerto però 15 euro un po'. Questo io trovo sia un concetto drammatico che negli anni ci ha portato, ahimè, a se ora togliamo i finanziamenti che cosa resta? Non c'è più musica. Quindi l'Onyx in realtà è una realtà attiva, solo che è costretta a dei budget limitati, volendo lasciare intatto il concetto di associazione di appassionati, libera di fare cultura vera, perché è una delle associazioni che produce contenuti. Fra i dischi più importanti c'è sicuramente quello di Nicola Arigliano, che era ormai scomparso dalle scene e che loro hanno proprio ripescato con un trio fantastico. Addirittura Nicola Arigliano poi ha vinto, e quindi Onyx si fregia dell'onore di aver vinto con lui il premio Tenco. Loro non lo sapevano, hanno semplicemente fatto un lavoro di produzione di contenuti. Torniamo alla tua di carriera. Qui, abbiamo detto che questo è un disco che sposa il cantautorato in qualche modo al jazz. Hai deciso cosa farai da grande o sei ancora in questa strada un po' intermedia? Io ho deciso che da grande continuerò a sognare, come quando facevo da bambino sogni bellissimi. E poi mi sono accorto che questo sogno non ero più bambino, ero un adolescente e continuavo a farlo, poi ero ragazzo e continuavo a farlo, adesso sono un uomo, mi rendo conto che continuo a sognare, quindi da grande continuerò a fare il sognatore. Bene, ti ringrazio molto e ti auguro con tutto il cuore che i tuoi sogni si avverino. Grazie per l'attenzione, grazie Gerlando, grazie. Grazie per aver ascoltato A proposito di jazz. Potete ritrovarci online sul sito www.online-jazz.net, sulla pagina Facebook facebook.com/onlinejazz e sul profilo Twitter @onlinejazz. Buon jazz a tutti!